Benvenuti cari ascoltatori, qua è Murtag. Questa non è una puntata regolare di Nerdcast, come avrete visto dal titolo, è uno speciale dedicato a Final Fantasy VII. Volevamo organizzare una puntata normalissima, anche per giugno non ce l'abbiamo fatta purtroppo a causa, diciamo, università. Io che sono forse l'unico che al momento ha un po' più di tempo libero. Ho cercato di mettere assieme un po' appunto questo speciale che in realtà avevo in mente da un bel po' di tempo. In realtà avevo in mente dallo speciale su Final Fantasy IX di un bel po' di tempo fa, quasi un anno fa. Restando in tema, facendo un inciso, che probabilmente non importerà a nessuno tranne che al sottoscritto, Nerdcast ha proprio in questo mese compie 3 anni, dal primo Nerdcast che invito tutti a non andare ad ascoltare perché era orribile, e lo festeggio appunto con questo speciale. Perché Final Fantasy VII? Perché no, in realtà, Final Fantasy VII, è un gioco che, più che altro deve essere provato prima di tutto, poi forse giocato. Molti si avvicinano al mondo degli RPG, diventano drogati degli RPG, come ha fatto il sottoscritto, proprio giocando, cioè provando prima il gioco in questione, ovvero Final Fantasy VII. Quella che avete ascoltato in apertura si chiama Opening Theme, Bombing Mission. Come diciamo musica, l'apertura in effetti è un po' lunghetta. Devo dire la verità, però l'ho messa appunto perché è la primissima soundtrack che noi ascoltiamo quando giochiamo al gioco, quando praticamente c'è la schermata principale del gioco. E dunque mi è sembrato anche un modo simpatico per iniziare lo speciale. Final Fantasy VII, così, anzi, prima di entrare in tema, lasciamo subito i contatti. Nerdocast@gmail.com è la nostra mail. Siamo su Twitter, abbiamo 4 account diversi. Vi darò l'account del podcast in generale, utilizzato un po' da tutti quanti, che è twitter.com/nerdfats. Siamo sia su Facebook che su iTunes, ci trovate digitando Nerdcast, e il nostro blog è nerdpodcast.blogspot.com. Mi sembra di aver detto tutti i contatti. Dunque, per iniziare a parlare di Final Fantasy VII è un po' difficile in realtà, ci sarebbe tantissimo da dire, lo diremo nel corso dello speciale. Final Fantasy VII esce per PlayStation PSX nel 1997. Doveva in realtà uscire, attenzione, per il Nintendo 64. Le cartucce del Nintendo 64 erano in realtà poco, diciamo, flessibili per un gioco dalla portata di Final Fantasy VII, così venne scelta PlayStation. Ricordiamo che prima di Final Fantasy VII tutti gli altri Final Fantasy comunque erano esclusiva Nintendo, uscirono soltanto per appunto piattaforme Nintendo. Con la PlayStation anche il primo Final Fantasy per PlayStation. Il successo è enorme, ancora oggi vende tantissimo. Nel 2009 è uscito sul PSN appunto per PlayStation 3. E vi consiglio, se avete una PlayStation 3, di acquistarlo, perché chiaramente merita, e trovarlo originale non è che sia difficile, però giocarlo su una PlayStation è abbastanza complicato. Uscì anche per PC con una versione, secondo alcuni, un po' peggiore, però è sicuramente un gioco che un videogiocatore che si ritenga tale deve almeno provare una volta, almeno una volta nella vita bisogna provare, che ne so, i primi 10 minuti di Final Fantasy VII e capire, cercare di intuire, perché questo è diciamo considerato come uno dei giochi migliori di sempre. Noi andiamo ad ascoltarci un altro remix, sempre di una soundtrack di Final Fantasy VII. Questa si chiama Electric the Chocobo Ed è una soundtrack abbastanza famosa per chi conosce Final Fantasy in generale. De Chocobo, chiaramente mi sono scordato una cosa importantissima, cioè che il compositore delle musiche di Final Fantasy VII, come di tantissimi altri Final Fantasy, è sempre il maestro Nobuo Uematsu, il quale secondo me come compositore è insuperabile. Chiaramente, anche come dissi nello speciale di Final Fantasy IX, La soundtrack di Final Fantasy VII vale il gioco, nel senso che escludendo gameplay, storia, grafica, eccetera, solo la musica vale almeno provare il gioco. Parlare della storia di Final Fantasy VII risulta difficile principalmente perché non vorrei fare assolutamente nessuno spoiler. Per parlarvi della storia, quindi diciamo farei un recap generale dei primi minuti, delle prime ore, primissime ore di gioco in generale, come si svolge il gioco poi andando più avanti. Beh, il protagonista principale, lo saprete, è Cloud, questo ragazzo silenzioso, biondo, che ha una missione principale, cioè quella di fermare un'associazione criminale chiamata Shinra, la quale nel corso del gioco poi diventerà anche amica, e mi fermo qui, diciamo, in un certo senso, la quale Shinra sta cercando di praticamente succhiare energia al pianeta che in questo caso, in questo Final Fantasy, si chiama Gaia. Le prime ore di gioco sono ambientate all'interno di Midgar, che è la città appunto dove c'è la base Shinra, eccetera. Ma chiaramente dopo una introduzione diciamo abbastanza scoppiettante, ci ritroveremo anche al di fuori di Midgar e quindi anche a vagare per il mondo esterno, come è nella tradizione dei Final Fantasy. È nella tradizione di Final Fantasy, ma diciamo che mentre negli altri Final Fantasy, quelli precedenti al 7, era l'esplorazione, diciamo, era più immediata, in questo arriva un po' dopo. Diciamo, il cattivone in questo caso in realtà non è la Shinra, ma è un personaggio ben conosciuto quanto Cloud, che è appunto Sephiroth. Sephiroth in realtà una volta era con i, tra virgolette, buoni. Difatti mi sono dimenticato di sottolineare che Final Fantasy ha due prequel, cioè un gioco che si chiama Crisis Core Final Fantasy VII. È un gioco che si chiama Before Crisis Final Fantasy VII. Adesso, Before Crisis è un gioco uscito solo per cellulari, in realtà non è molto famoso, però Crisis Core, uscito solo per PSP, è un capitolo. Da molti è stato considerato come uno dei giochi migliori su PSP. È un prequel, appunto, di Final Fantasy VII. Il personaggio principale si chiama Zakfair, è un personaggio che poi in Final Fantasy VII non si vede più, per ragioni che qua non sto a spiegare, appunto per non fare spoiler. Detto questo, è chiaro che la storia in generale del mondo di Final Fantasy VII è difficile da articolare, comunque da rendere breve. C'è da dire che nel corso della storia Cloud troverà dei compagni coi quali formerà il gruppo appunto di personaggi giocabili, per arrivare poi a combattere, questo credo non sia uno spoiler, il boss finale, il cattivone finale, che è appunto Sephiroth, il quale ha come scopo finale il più diciamo ridicolo e più usato nel mondo, cioè quello di distruggere la Terra, di distruggere Gaia. L'obiettivo principale di Cloud e compagni è appunto quello di fermare Sephiroth. La soundtrack che accompagna lo scontro finale con Sephiroth, che secondo me è uno degli scontri finali più lunghi di sempre, perché io mi ricordo ci sono stato forse mezz'ora, un'ora per cercare di sconfiggere Sephiroth alla sua forma finale. E quello scontro è accompagnato da una musica talmente epica che viene riproposta anche in altri giochi oltre a Final Fantasy VII, come per esempio Kingdom Hearts. È della musica, possiamo anche definirla la soundtrack, la theme di Sephiroth stesso. Si chiama One Winged Angel e questo è un bel remix molto interessante, diciamo esotico, e godetevelo. Io ho sempre pensato che Nobuo Uematsu nel comporre questa soundtrack per Final Fantasy VII fosse sotto acido o qualcosa, perché si è impegnato tantissimo. Tra l'altro mette un'agitazione addosso quando la si sente, poi nella situazione in cui si gioca, che è praticamente fatta apposta. Quindi io sicuramente più che mai, ora più che mai, vi consiglio di andare ad ascoltare la musica originale, che è più orchestrata, e ci sono questi canti in latino, anche difficili un po' da tradurre, che rendono l'atmosfera un po' più pesante, un po' più anche macabra, e quindi è un lavoro fatto benissimo, secondo me. Proseguendo, abbiamo parlato prima dei compagni di viaggio di Cloud. Come in ogni Final Fantasy che si rispetti, anche Final Fantasy VII ha i suoi personaggi giocabili. Qua sono 9, includendo anche Cloud. Di Cloud, in realtà di Cloud si può dire poco, nonostante sia il protagonista principale. È sempre un personaggio molto riservato, parla poco, ha in mente soltanto gli obiettivi principali, che sono quelli appunto della sconfitta di Sephiroth, di salvare il mondo, e non si rende neanche conto delle vicinanze cioè delle attenzioni in realtà che gli rivolgono altri personaggi femminili come Tifa o Aerith. Eppure, una cosa molto, diciamo, interessante che ho notato giocando a Before Crisis, anzi scusate, Crisis Core per PSP, c'è un Cloud che è, diciamo, più ingenuo, ma molto più ingenuo di Final Fantasy VII, mentre in Final Fantasy VII si modifica, si trasforma completamente in un'altra tipologia di persone. Questa è una cosa che non ho sempre apprezzato appieno, ma comunque volendo ci sta. E appunto Cloud ricorda anche un altro personaggio principale di un altro Final Fantasy, cioè quello successivo al 7, Final Fantasy 8, e mi riferisco a Squall. Se mai dovessi fare uno speciale su Final Fantasy 8, appunto, direi che Squall e Cloud sono praticamente due personaggi, se non uguali, comunque molto, molto simili. Dopo Cloud abbiamo altri sei personaggi non facoltativi, mentre due sono facoltativi. Cosa vuol dire facoltativi? Significa che ad un certo punto, anzi a vari punti della storia, si può decidere o meno se assumere in squadra altri due membri. Questi due membri sono Vincent Valentine e Yuffie. Sicuramente Yuffie è più facile, tra virgolette, da sbloccare. Non vi dico come farlo, perché appunto non voglio. Voglio che questo speciale sia senza spoiler il più possibile. È invece un po' più complicato, ma comunque molto interessante, sbloccare Vincent Valentine. Entrambi i personaggi, sia Vincent che Yuffie, sono due personaggi molto interessanti, diciamo così, almeno secondo me. Quindi, se giocate, se decidete di giocare a Final Fantasy a fondo, Final Fantasy VII a fondo, vi consiglio anche di sbloccare Vincent Valentine e Yuffie. Chi è Vincent Valentine? Anche su Vincent Valentine c'è poco in realtà da dire. Lo si trova, questo lo posso dire, credo non sia uno spoiler, lo si trova all'interno di una bara. Non si riesce a capire se fosse morto in una vita precedente, se fosse in realtà un vampiro, eccetera. Però si sa che ha avuto una storia d'amore con una donna di nome Lucrezia, la quale secondo lui è ancora viva. È vero, non è vero? Le risposte sono nel gioco e sicuramente non sono io che ve le anticipo. Se volete, giocate la storia di Vincent e scopritelo da solo, da soli. Altri personaggi principali. Un personaggio fondamentale in Final Fantasy VII è Aeris, o Aeris. Io ho sempre detto Aerith, ma probabilmente è sbagliato. Sarà Aeris o qualcosa del genere. E Aeris è questa ragazza che anche lei è molto riservata, non c'è molto da dire anche sul passato di Aeris. Sicuramente prova qualcosa per Cloud, il personaggio principale. Forse anche Cloud prova qualcosa per Aeris, però diciamo che a un certo punto questo non si può più sapere, ecco, e non mi spingo oltre anche in questo caso. Andiamo avanti. Abbiamo Tifa. Tifa è l'altro personaggio femminile. Questo è un Final Fantasy in cui i personaggi femminili sono un bel po', in effetti. Tifa, la quale anche lei diciamo, ha una cotta per Cloud, però a differenza sia di Vincent che di Cloud che di Aerith, Tifa è un tipo molto aperto. Tant'è che la sua arma, diciamo, principale sono i pugni stessi. È uno di quei personaggi messi nel gruppo, secondo me, per cercare di rendere un po' più simpatica la situazione, meno pesante. Talvolta Final Fantasy VII diventa un po' riflessivo, un po' troppo riflessivo, grazie a personaggi come Tifa, diciamo, si ride anche all'interno del gioco. Non solo Tifa, ma anche Barret. Barret è in effetti il primo personaggio secondario, è utilizzabile all'interno del gioco. Tant'è che si inizia il gioco appunto con Cloud e Barret in squadra. Barret è questo omone nero, diciamo di carnagione scura, che fa la parte, diciamo, del simpaticone. Quindi è sicuramente un personaggio che o lo si ama o lo si odia, questo è sicuro. Barret è un personaggio anche forse un po' poco utilizzato da molti dei fan, ma secondo me è anche un personaggio interessante da utilizzare soprattutto in battaglia. Altri personaggi, famosissimo il Cid di questa edizione di questo Final Fantasy 7, voi sapete, lo ripeto, che è dal secondo Final Fantasy. In ogni capitolo della saga di Final Fantasy c'è un personaggio che si chiama Cid. In questo caso, appunto, il Cid di Final Fantasy VII è anche giocabile, è un personaggio secondario. Cid è un pilota di aerei, come la maggior parte dei Cid dei vari Final Fantasy. Ha anche lui un temperamento simile a quello di Barret, quindi diciamo scherzoso, molto determinato. Anche in battaglia è parecchio utile. È un buon personaggio. È diciamo, anche forse è quello con la storia. Forse anche più toccante, perché ogni personaggio, diciamo, giocabile ha una sua storia che può essere esplorata o meno dal giocatore. Secondo me quella di Cid è forse anche quella un po' più umana. Poi abbiamo Red XIII, che io ho sempre chiamato Red 13 o Red 13. Red XIII, o Red 13, è in realtà una sorta di cane, lupo più o meno, che però può parlare. È stato reso così a causa di un esperimento. E si rivela anche lui un personaggio anche molto abbastanza interessante, un personaggio chiuso, però saggio, forse il più saggio del gruppo. È divertente da utilizzare, anche lui ha una backstory comunque molto interessante da analizzare. Ultimo personaggio giocabile è Kate Sith o Kate Sith o Kit Shi, Le pronunce dei personaggi in Final Fantasy VII sono varie, davvero. Non ho mai capito bene come si pronunciassero i vari personaggi. Comunque io l'ho sempre chiamato Kite Sith. Kite Sith è un gatto che diciamo in groppa ad un robot ciccione. Ecco, è molto difficile da immaginare, però andate su Google, cercate Kite Sith e vi renderete conto di che tipo di personaggio è. Kite Sith in realtà è un personaggio molto strano. Ed è strano perché ad un certo punto, diciamo ad un certo punto della storia, si capisce la sua, tra virgolette, provenienza. Mi piacerebbe, diciamo, analizzare più a fondo gli aspetti un po' di tutti i personaggi, però non posso appunto per ragioni di spoiler. E Kite Sith lo spoilererei completamente. Diciamo, è un personaggio eclettico. È anche lui molto, tra virgolette, simpatico. E a pensarci bene, ora che ci faccio caso, all'interno del gruppo dei personaggi giocabili di Final Fantasy, c'è il gruppo di quelli un po' più scherzosi, aperti, simpatici, e poi c'è il gruppo di quelli un po' più riflessivi, anche più filosofici, se vogliamo. E tutto ciò è amalgamato benissimo, secondo me. È forse uno dei gruppi, tra virgolette, giocabili, di personaggi giocabili all'interno della saga di Final Fantasy meglio costruito. Forse mi sono dilungato anche un po' troppo sulla descrizione dei vari personaggi. Questa si chiama Valley of the Fallen Star. Ascoltatela bene perché secondo me è una delle soundtrack migliori non solo di Final Fantasy, ma in generale della storia dei videogiochi. Valley of the Fallen Star, questa era una versione ridotta fatta con la chitarra. Vi consiglio anche in questo caso di andare a ascoltare l'originale su YouTube o da altre parti, perché ripeto, personalmente è una delle migliori, cioè io la considero una delle migliori soundtrack per un videogioco di sempre proprio. Assolutamente molto toccante, poi anche come viene inserita nel gioco, nel momento in cui viene inserita, è molto molto bella. Parliamo del gameplay. Il gameplay è Final Fantasy, cioè è un gioco di ruolo, combattimenti a turni. Chiaramente è il primo, primissimo Final Fantasy in 3D. Il fatto che ci sia il 3D in realtà è poco rilevante, alla fine è soltanto una cosa estetica. I combattimenti dunque possono essere assimilati un po' alla maggior parte dei Final Fantasy. Ci sono sempre i soliti, le solite opzioni di attacco, magia, summon e item, dunque oggetti. Secondo me le summon in queste Final Fantasy hanno particolare importanza, anche perché possiamo dirlo, sono diciamo le summon più famose dei Final Fantasy in generale. Lo stile di combattimento, se lo vogliamo chiamare così, è caratterizzato dalle Limit Break. Le Limit Break sono, diciamo, i colpi finali, tra virgolette. Ogni personaggio ha una sua limit break. Le limit break sono tantissime, varie, disparate. Si può arrivare ad avere delle limit break anche casuali, nel senso che fanno un danno a seconda di, per esempio, quale oggetto si porta addosso, o della salute o dei magic points che si hanno in quel momento. Comunque è molto interessante andare a cercare ogni singola summon e ogni singolo limit break, anche perché grazie al 3D, diciamo, sono anche più spettacolari. Beh, oltre questo, in realtà il gameplay rimane molto simile agli altri Final Fantasy. A un certo punto del gioco si può pilotare chiaramente una nave, c'è un sottomarino, quindi si possono esplorare anche i fondali. Importante anche sottolineare la presenza dei Chocobo, dei Chocobo anzi, non che non ci fossero nei precedenti Final Fantasy, però in questo Final Fantasy i Chocobo si possono anche allevare per creare, diciamo, altri Chocobo. Questo è importante soprattutto perché si può arrivare poi al Golden Chocobo, il Chocobo finale, quel Chocobo che può attraversare qualsiasi tipo di terreno, diciamo, che è importantissimo per arrivare poi a delle summon, diciamo, alle summon più importanti, più forti del gioco. Mi ricordo la più forte si chiama Knights of the Round, o Knights of Round, o una cosa simile. O comunque un chocobo che serve per arrivare in posti particolari. Comunque, diciamo, il gameplay è fatto in modo che, non cioè, che l'obiettivo finale non sia solo sconfiggere Sephiroth, ma cercare anche di capire, di esplorare il mondo nella sua interezza. C'è da dire poi che, e qua ripeto, credo di non fare uno spoiler, se lo dico, c'è da dire che Sephiroth forse non è neanche il boss più potente del gioco. Ci sono le Emerald e le Ruby Weapon, che sono dei boss opzionali, che possono essere affrontati se si vuole per testare la propria potenza. Comunque, anche il fatto di andare a scavare all'interno della storia personale di ogni personaggio dà una profondità al gioco che secondo me nessun altro Final Fantasy prima aveva. Forse Final Fantasy 6 si ci avvicinava, però Final Fantasy 7 ha secondo me qualcosina in più, qualcosina in più. Detto questo, credo non ci sia nient'altro di importante da dire. Ah, sicuramente le materia, ecco, le magie e le abilità vengono gestite attraverso le materia. Le materia sono, diciamo, dei globi che vengono messi all'interno di slot che corrispondono, diciamo, anche all'arma in uso, cioè per ogni arma in uso ci sono delle slot di materia e noi possiamo utilizzare varie tipologie di materia. C'è la materia appunto per la cura, per il fuoco, che dà la magia fuoco, per il ghiaccio che dà la magia ghiaccio, eccetera. Le summon sono anche sotto forma di materia. Ci sono materie particolari, tutte da scoprire, comunque elencarle qua sarebbe molto, molto lungo. Una parentesi e poi chiudo. C'è una parte del gioco, c'è un posto, anzi, un setting del gioco che si chiama Gold Saucer, che è una sorta di parco divertimenti gigantesco. È la prima volta che lo si vede all'interno di un Final Fantasy, se la memoria non mi inganna, è molto divertente, cioè ve lo cito perché comunque è anche una parte del gioco che si può provare quando non si ha voglia di giocare al gioco stesso, cioè quando magari si vuole fare qualche minigioco, ecco, diverso e non giocare proprio al Final Fantasy stesso. È questo, appunto. Credo di aver detto tutto riguardo il gameplay di Final Fantasy. Noi proseguiamo con le musiche di Final Fantasy. La prossima è una musica epica, forse anche più che epica. Magari molti di voi avranno già sentito la musichetta di Final Fantasy durante gli scontri normali. Per chi non lo sapesse, nei Final Fantasy in generale c'è la soundtrack per gli scontri normali, cioè quelli appunto che occorrono più volte all'interno del gioco, e poi c'è la musichetta per gli scontri un po' più tosti, quelli per i boss, diciamo la musica più tosta, la musica più seriosa, anche più, tra virgolette, eccitante. Ecco, questa si chiama Steelmoor Fighting e avviene appunto nei combattimenti più importanti, ovvero nei combattimenti con i boss più ostici. Steelmoor Fighting, la soundtrack che viene nei momenti, diciamo, più tosti. Quando arriva, sapete che c'è un combattimento un po' più difficile del normale. Bene, noi in realtà siamo in chiusura. Ripeto, questo è stato purtroppo uno speciale, o per fortuna in realtà, uno speciale che ho fatto per non lasciare un gap tra le pubblicazioni. A me diverte tantissimo sempre fare speciali da solo, però mi sarebbe piaciuto anche fare un Nerdcast. Purtroppo per vari impegni non abbiamo potuto farlo. Su Final Fantasy VII. Direi abbiamo detto più o meno tutto. Chiaramente qua è stato votatissimo, voti quasi perfetti da tutte le riviste, tutti i siti. C'è da dire però, questa è una piccola chicca, che Famitsu gli diede 38 su 40. Stessa Famitsu che a Final Fantasy XIII 2, uscito a febbraio, ha dato 40 su 40. Non che Final Fantasy XIII 2 sia un brutto gioco, anzi, è molto bello, però Famitsu dare 38 su 40 a Final Fantasy VII, non lo so. Mi sembra un po' strano. E oltre questo, si parla da anni ormai di un remake, di un possibile remake per la PlayStation 3. Io dico questo. Per favore non facciamolo, perché prima cosa di tutto fare un remake di Final Fantasy VII significherebbe dire che Square riconoscerebbe che Final Fantasy VII sia il miglior Final Fantasy mai prodotto. E questo non è, tra virgolette, giusto nei confronti degli altri Final Fantasy. Io ho detto altre volte che, tra l'altro, il mio personale, il mio preferito, il mio Final Fantasy preferito non è il 7 ma il 9. Se Square dovesse fare un remake di Final Fantasy 7, direi: ma perché non l'avete fatto del 9? Fanno bene, secondo me, a non fare un remake. Anche perché, voglio dire, cioè, perché fare un remake di Final Fantasy 7? Quando mai hanno fatto un remake di un gioco che è andato bene? Non mi viene in mente al momento, magari c'è stato. Però non mi viene in mente un remake di un gioco che è stato fatto bene. Cioè, a nessuno viene da dire perché non fate un remake del primo Halo? Perché il primo Halo probabilmente piaceva come è stato. Perché nessuno fa un remake di Super Mario Bros. Su NES? Perché probabilmente piace in quella maniera. Allora perché dovrebbero fare un remake di Final Fantasy VII su PlayStation 3? Questo me lo devono spiegare. E io il remake, infatti, non lo voglio. Comunque, dopo questa critica un po' cattiva, però quando mi toccano queste cose un po' mi infervoro, io vi dico questo, ragazzi, se non avete mai giocato a Final Fantasy VII o a nessun Final Fantasy, vi imploro, proprio vi prego, almeno provatelo, provate un benedettissimo Final Fantasy, provate Final Fantasy VII. Non dico giocatelo, perché anch'io prima di giocarlo dicevo: bah no, ma a me questi GDR a turni danno fastidio, non riesco a muovermi liberamente, sono macchinosi, sono lenti, a me piace sparare, mi piace saltare, eccetera. Poi ho provato Final Fantasy VII e da lì è nata la mania, diciamo, per gli RPG, tant'è che al giorno d'oggi è cambiata la mia personalissima situazione, cioè preferirei un bel RPG alla Final Fantasy che un solito FPS, un action adventure, che ormai sono tutti uguali. Quindi, non avete mai provato un Final Fantasy o non avete mai giocato a Final Fantasy VII, provatelo. 10 minuti, 15, 20 minuti, provatelo, ascoltatelo. Cercate di capire che tipo di gioco è, perché è uno dei giochi migliori di sempre. E questo è proprio senza dubbio. Dopodiché, non vi sto dicendo che vi deve piacere per forza, perché i gusti sono gusti, ci mancherebbe altro. Però, non partite prevenuti. Andate, provatelo. E se vi piace, finitelo. Perché va finito, anche, cioè, secondo me, anche se non dovesse piacervi, dovreste finirlo. Questa però è la mia mente malata che vi invito a non seguire. Benissimo, siamo in chiusura, prima della soundtrack conclusiva, diamo i contatti, nerdcast@gmail.com è la nostra mail, nerdpodcast.blogspot.com è il nostro blog di riferimento. Siamo su Twitter, a twitter.com/nerdfats, siamo sia su iTunes che su Facebook, ci trovate digitando Nerdcast. Comunicateci, commentate quello che vi pare, se vi pare. da qui diciamo chiudiamo, Murtag vi saluta. Spero di rivedervi prima di agosto con un Aircast, dunque diciamo con tutti e quattro i conduttori. Scusatemi se nel corso dello speciale ho fatto qualche errore così, ma purtroppo sto registrando di sera tardi perché così mi andava. Detto questo e date queste scuse inutili che non interessano a nessuno, questa è Final Fantasy VII Theme, si chiama così la soundtrack, è la soundtrack ufficiale di Final Fantasy VII. Io, Murtag, vi saluto e alla prossima. Ciao!